gratuita di trevimeteo.com. ADP, leader mondiale nella gestione del personale, vi presenta... Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu che stai facendo, fratello? Niente. Ammazzo il tempo. Questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati. Sono incazzato, andate via, sono incazzato perché non lo so, per cazzi via. Questa è la marcia degli... Magnasco è a favore della... Allora avete capito quello che ha detto? Magnasco è a favore delle cose civili. Bisogna interpretare come i Vangeli e tutte le cose che riguardano la Chiesa vanno interpretate. Quando uno dice io sono contro le unioni civili, però interpretando si capisce che è a favore, hai capito? Sono arrabbiato, sono scontrato, se uno mi dice calmati su, le proprio quante mi scincaccia ancora di più. Insomma, se, no, se vuoi prendere, mai prendere direttamente. Senta, ma... come affermi, l'ho organizzato io, questo. Una figuraccia, un po' di una figuraccia. Renzi ci ha accolto benissimo perché erano tutti nudi. Ci ha accolto nudo, hai capito? La marcia degli arrabbiati, sono incazzato, andate via, sono incazzato perché non lo so, per cazzi via. E allora, cari ascoltatori, è Benigni, che è tornato, ci ha accolti nudi, dice Renzi. Le statue, mamma mia, ancora sta storia delle statue sui giornali, non se ne può più. Allora, salutiamo il fornaio di Ravarino, Marco. Ciao Marco, sempre lì. Oggi friggiamo 10 kg di frappe. Ah, beh. Due frappe lì le vorreste? Salutiamo anche Sergio da Lecce che ci ascolta. Buongiorno anche a te. Fantastico, questo dalle 6:10 ci scrive: un saluto da Amsterdam, ti ascolto tutte le mattine da anni. Da Amsterdam! Ciao caro ascoltatore! Ed eccolo qua, sempre dall'Australia, la raccolta di vongole, ci fa sapere il nostro ascoltatore che ci ascolta dall'Australia. Ha portato 28 kg in mezz'ora, 28 kg in mezz'ora. Come le raccogliete le vongole? Con la ruspa? 28 kg in mezz'ora. Bah, forse 2,8 kg, non lo so. Allora, cari ascoltatori, dai che è venerdì, sono le 6:31 minuti. Si chiude questa settimana decisiva, numero 143 per l'abolizione delle province. Con 24 mattino siamo pronti qui, come sempre in diretta fino alle 9. Non male quella di Benigni, dice, ma Bagnasco in realtà è a favore delle unioni civili, la Chiesa va sempre interpretata, va interpretata. Ah, domani c'è il Family Day, tra l'altro, andate al Family Day, cari ascoltatori, oppure che ne so, andate a farvi una gita fuori porta, a mangiare, a bere, a stare in famiglia, se ce l'avete. Oppure a fare shopping, a sciare, a oziare, non lo so, ditecelo al 349-238-6666, numero per i vostri messaggi anche WhatsApp. C'è il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia e il Barlamento che può aprire. Avanti. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Al ministro Boschi, al centro di una polemica, ma non quella che pensate voi. La polemica stavolta travolge, coinvolge, avvolge il conduttore di Ballarò, Massimo Giannini. È polemica perché ha detto una frase... una frase nell'ultimo Ballarò che gli è valsa un po' le critiche di tale onorevole Anzaldi del PD, che dice va cacciato in pratica, insomma ha detto una frase grave, ma tutto a suo tempo. Allora voglio salutare una che al Family Day ci sarà sicuramente, Vladimir Luxuria, buongiorno. Eccoci. Vladimir è una persona molto sensibile, ha un sentire, come dire, delicato. Ormai sai, Vladimir, che questa è la tua sigla. Guerriero della... Come stai? Della democrazia. No, io vado al famolo dai, inteso come provvedimento legislativo sulle unioni civili. Famolo. Ho fatto un calcolo e ho fatto i compiti. Sì. Sì. Allora, la prima che ha proposto una legge sulle unioni civili è stata la senatrice comunista Ersilia Salvato nel 1986. Sì. Sono passati 30 anni. Un anno sono 52 settimane. Questa potrebbe essere la 1560esima settimana decisiva sulle unioni civili. Ma è fantastico! Me la segno adesso. 1560esima. Beh, dai. Io che mi lamento per le province, porca miseria, guarda qui, vedi, siamo solo alla settimana numero 143. Non male, il famolo dai. Allora, insieme a Vladimir Luxuria, che ricordo sempre poi alle 9 sarà a Radio Capital, il Geco la Farfalla, c'è la nostra Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, anche lei andrà domani, sicuro, lo so. Buongiorno. Buongiorno, sono già pronta. Vabbè, ma due perché non ci ha pensato, no, ad andare? Ma che devo dire? Non lo so, intanto io non vado, non sono mattiniera, non sono marciatrice, non sono presenzialista . Poi sarebbe veramente contraddittorio. Ma perché? Perché io non saprei proprio dove andare, non saprei dietro quali bandiere marciare, non saprei proprio, non lo so. Ma non so, ma non credo che ci siano bandiere, non lo so, si va lì, si ascolta, sì, se uno vuole, no. Stiamo a vedere, tanto abbiamo visto di tutti i colori, vedremo anche questa. Comunque, ecco, la cosa divertente è che ci sarà, ho letto che ci saranno i pullman organizzati dalle diocesi, questa è una cosa... Immagino di sì, insomma... Fa molto Don Camillo sta roba, Fa Don Camillo. Ma guarda che ha ragione, io ho mia cognata che è andata alla messa funebre della nonna, sì, a Ossara di Puglia, e il sacerdote durante la messa ha detto, c'erano pure molte vecchiette, ha detto, guardate, durante la messa, ha detto, guardate, sono rimasti dei posti liberi sul pullman per il Family Day, quindi... Mi raccomando, perché io poi dopo incontrerò il Santo Padre e porterò anche il vostro saluto, sì, e la vostra bella benedizione. Quindi in realtà molte diocesi hanno fatto passare la partecipazione al Family Day come un pellegrinaggio, come andare a chiedere la grazia a qualcuno, hai capito? Ho capito, ma che male c'è? Cioè, io non andrò, tu non andrai adesso, ovviamente, non sei, vai al famolo dai, però cioè, che, non lo so, c'è qualcosa di male, vanno a una manifestazione. Un ingannevole, secondo me ci sarà anche la dimostrazione delle pentole sul pullman. Dici, la classica vendita, quella delle pentole. La gita Tindari, ve lo ricordate? Sì. Allora voglio leggere a questo punto, per raffreddare un po' gli animi e calmare la situazione, ciò che il responsabile portavoce del Family Day, Massimo Gandolfini, dichiara oggi a Repubblica. Cara Vladimir Luxuria, in alcuni casi, dice, l'omosessualità, che non è una malattia, in alcuni casi però il comportamento omosessuale è fonte di disturbi della personalità. E quindi, cara Vladimir, capisci? Questo Massimo Gandolfini, ci ha detto che non siamo malati, ma che siamo disturbati. In alcuni casi. In alcuni casi. Guarda, basterebbe leggere veramente le cronache di tutti i giorni per capire che i disturbati non sono una categoria sessuale, sono abbastanza trasversali, e devo dire che anche la categoria eterosessuale ci riserva tanti casi di persone un attimino disturbate. Guarda, di disturbati in Italia Ce ne sono parecchi, su questo non c'è dubbio, i disturbati potrebbe essere una categoria veramente questa parte, no? I disturbati. Beh, però, sai, se... i comportamenti dei maschietti che picchiano, che anche arrivano a uccidere le donne, non è che siano così normali, eh? No. Comunque, insomma, non andrete al Family Day, non so, ho provato a tentare quest'ultimo ingaggio, così come se fossi un sacerdote Carla Rocchi di provincia. Vi ricordate quando, qualcuno se lo ricorderà, quando c'era il referendum sul divorzio? Sì. Il clima è più o meno lo stesso. Io mi ricordo che c'erano in piazza le bande, i comizi, le cose, c'era questa grande mobilitazione. Da una parte era semi convinta e semi terrorizzata, io me lo ricordo benissimo, e mi ricordo anche la vignetta di quando ci fu il risultato, che dove si vedeva il tappo dello champagne schizzare con la faccia di Fanfani, Dio l'abbia in gloria, ce l'ha scritto no. Sì. Era proprio il clima è un po' il lo clima stesso, è quello, no? Il clima è quello. Però sì. voglio fare come sempre il pronostico, l'ho fatto tutta la settimana con tutti e gli ospiti qui al Parlamento, il pronostico di come andrà la questione delle unioni civili. Carla Rocchi, passerà o no questa legge? Sì, no, o magari sì, ma con qualche compromesso? All'italiana. Cioè? Passerà con modifiche, si dirà che le modifiche sono frutto di un caso di coscienza. Ma sai che ieri il senatore Malan ha citato anche cani e gatti, no? Lei è presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Devo capire un attimo la frase, perché l'ho messa da parte. Ha detto, vabbè, dice praticamente che anche i cuccioli, c'è il divieto di legge di strappare, credo, i cuccioli appena nati per 60 giorni, e noi con l'utero in affitto, che in Italia non c'è, con l'utero in affitto strappiamo bambini, proteggiamo cuccioletti di cani e gatti e i bambini no. Ma scusa, li vogliamo lasciare nella pancia della madre per altri 60 giorni? Non ho capito. Però io sull'utero in affitto sono contrario. Devo dire, non è una questione di, non lo so, a me sarò così, facciamo stare, che sembra che uno abbia opinioni un po' di retroguardia. Io non sono granché favorevole, non mi sono sicura che noi riusciremmo a farne una cosa come... Una roba un po' imbrogliata riusciremmo sicuramente a farla, quindi, sì. Ma io mi contenterei che passasse il principio. Ecco. Vabbè, vediamo il pronostico di Vladimir Luxur. Anche tra l'altro, Vladimir, attenzione, perché un ascoltatore, Pietro, ci fa sapere nel tuo ottimo calcolo che ci sono almeno 7 bisestili, inoltre ogni anno ha un giorno extra rispetto alle settimane, quindi potremmo arrivare a 1565esima settimana decisiva. Meglio mi sento. Insomma, dopo aver spaccato la testa con questo calcolo matematico alle 6:40, il tuo pronostico su questa legge? Io mi auguro che passi così com'è, compresa la questione non dell'utero in affitto, perché sembra quasi d'annuncio immobiliari, no? Andiamo a affittare un utero, perché rimarrà comunque un reato, perché c'è già una legge che vieta la pratica della gestazione per altri in Italia, la legge 40, quindi non si sta discutendo questa legge. Tra l'altro io, a differenza vostra, penso che se non è a fini commerciali, ovviamente, cioè se non si tratta di uno sfruttamento delle donne povere, ma se si tratta di donne che consapevolmente e altruisticamente lo fanno. Pensa per esempio una sorella che per esempio vuole dare una mano alla propria sorella che magari ha avuto la sforzazione dell'utero e dice te lo voglio portare. Va bene, ma quanti casi al mondo saranno? Cioè di così, proprio di estrema solidarietà? In Italia sono pochissimi. E comunque si tratta di cliniche specializzate, ci si rivolge solo in California, in Canada, dove queste donne sono persone che lo fanno consapevolmente, hanno una ottima posizione economica, che hanno già dei figli, c'è un protocollo severissimo, ci sono psicologi, e quindi io penso che in nome dell'autodeterminazione, anche di scelta della donna sul proprio corpo, se una decide di realizzare il sogno di una coppia si gay, ripeto, non per motivi commerciali, ma solo con un rimborso delle spese, Io non penso che dobbiamo allora essere sei, noi non a sei giudicare la scelta degli altri. Va bene, ci siete cascate. Insomma, altre due della lingua biforcuta, direbbe padre Livio Fanzaga, mitico, mitologico direttore di Radio Maria. Cioè, io non ne posso fare a meno. Lingue biforcute, sentite qui. Tanti sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge. Tutta quella gente lì della lingua biforcuta che fa le trasmissioni televisive, fa i dibattiti, scrive sui giornali. Radiofoniche, lingue biforcute. Avete sentito? Lingue biforcute, ancora Fanzaga. Sentite qua, Fanzaga, padre Livio. Tutti i giornali che sono veramente una cosa incredibile, cioè tutte le televisioni, tutti i giornali sono schierati dalla parte del diavolo, diciamo pure così, dalla parte del diavolo, è ormai il padrone della stampa, eh? Il diavolo, e poi ce n'è uno nuovo, questi, senti qua, Non avendo un punto di riferimento, perché in fondo i figli delle coppie omosessuali sono figli di nessuno, c'è poco da fare, sono figli di nessuno. Figli di nessuno, Questa è la tutela dei bambini, cara Carla Rocchi, cara Vladimir Luxura, figli di nessuno i figli degli omosessuali. Certo che non lo so, cos'era, un gruppo musicale che si chiamava Senza Vergogna, chi era? Non lo so, i Senza Vergogna, non li conosco, non lo so, Vladimir, conosci i Senza Vergogna? No, io i figli di nessuno purtroppo esistono, sono i tantissimi orfani che sono in giro per il mondo. Sono tutte le creature che invece hanno la fortuna di avere qualcuno che si prende cura di loro, indipendentemente dall'orientamento sessuale, sono figli di qualcuno, cioè figli di chi decide di assumersi delle responsabilità, di sacrificare anche un po' la propria vita per cercare di crescere al meglio delle creature. Quindi figli di nessuno. No, proprio no, proprio no. Un po' forte. Comunque, insomma, c'è chi fa sapere che anche la CGIL ha sempre organizzato panino, pranzo al sacco per riempire le piazze. Su questo devo dire non vi seguo tanto sull'invito ad andare. Non so se è una manifestazione libera, cioè se un prete dice andate perché bisogna e via, insomma, per me non c'è problema, insomma, finché rimane tutto nell'invito ad andare in una piazza a far parte di una manifestazione, non è una cosa così grave. Che smacco sarebbe se il Family Day è un successo più grande del Giubileo della Misericordia? Il Giubileo della Misericordia io non lo dico con gioia, perché con constatazione è un flop, perché vedi poche persone, c'è poca gente, eccetera, poi gli alberghi sono mezzi vuoti a Roma, eccetera. Pensa se dovesse essere un successo il Family Day, vuol dire che alla fine tira più Mario Adinolfi del Papa, Tira più Mario Adinolfi del Papa, insomma, non male. Però facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico mentre mi strozzo quasi, e forse è Mario Adinolfi, che il nostro grande amico Mario Adinolfi, tu hai citato Mario Adinolfi, vedi, subito sarà lì a mandarci le maledizioni perché oggi ha invitato Vladimir Luxuria. No, Vladimir, no. Non arriva a questo, dai, non arrivi a questo punto. Ma lui mi può mandare le maledizioni in quanto tifoso della Juve. No, sentiamo il traffico, dai, che poi parliamo anche di questa vicenda che sta terremotando la RAI con la frase che sentiremo di Massimo Giannini a Ballarò sul ministro Boschi. Milan, a me non interessa il traffico, mica i tuoi passi. Uè Milan, buongiorno, se vuoi sapere come si risolve il problema delle unioni civili, basta inserire nella legge decide il presidente del tribunale. Come contribuente e cittadino italiano mi sento notevolmente offeso da questo governo di braghettoni. Mamma, ma perché i miei amichetti hanno mamma e papà e io ho solo, cioè, ho due mamme? Amore, ma non ti preoccupare, noi siamo una famiglia, non ti preoccupare. Ma chi è mio padre? Ma vaffanculo, vai a giocare alla PlayStation. Omina, sono fiorentino e stamattina ti sento parlare di queste banche, zii, nipoti, fratelli, babbi. Ma secondo te, me lo devi dire, secondo te, ma Renzi, una tromba la Boschi, sì o no? Non ho capito se i profughi devono avere più paura dell'ISIS, degli scafisti o dei danesi. Fiorentino, fai il bravo, ma che adesso qua stiamo esondando anche noi, poi dopo ci cacciano, Vladimir, ci cacciano come Rai, poi no, ma Giannini, cioè, la vogliamo sentire questa frase che il conduttore di Ballarò ha detto, Massimo Giannini? Peccato che però quando c'è una questione di opportunità interesse. Politica, non sto dicendo altro, sì, Mara Carfagna domani qua, faccio fatica a capire, cioè il fatto, cioè, beh, c'è il fatto l'abbiamo fatto raccontato, diciamo, delle connessioni, diciamo, de qualche rapporto incestuoso in questa vicenda c'è, ripeto, nessuna legge violata. Rapporto incestuoso. Ma che intanto, cioè, che, a chi, a cosa, che significava questa frase di Giannini? Tu l'hai capita, Vladimir, l'hai seguito in onda? Rapporto incestuoso, ma perché? Credo sia una metafora, simbolico. Sì, credo. Voglio sperare per lui, non lo so. A meno che non abbia delle prove, non lo so, ma non credo che si riferisse a un rapporto sessuale tra quello che riguarda. Forse si voleva riferire, ha sbagliato sicuramente una frase infelice. Sì. Forse voleva dire un conflitto di interessi. Ma forse sì, voleva dire banalmente che c'era un problema tra che è coinvolto il padre del ministro. Il ma... padre, poi c'è pure il fratello. Quindi sì, insomma, però insomma. La frase incestuoso effettivamente è un po' sgradevole. Un po' fortina come immagine. Carla Rocchi però ha seguito, segue sempre Ballarò, tutti i martedì. E quindi... Ma secondo me voleva dire questo, che siccome questa cosa vede dei forti legami, vede o perlomeno vede scritto che ci sono forti legami all'interno di un giro di persone, sì. Incestuoso vuole dire questo, quando una cosa avviene all'interno di un giro strettissimo di persone. Ah, ecco. Non credo che volesse cioè, dire non è, no, ma anche perché non ci sta proprio. Non, cioè voleva semplicemente dire che insomma sono che in famiglia c'è qualche problema, ma così, ma non nessuna allusione, ecco. Vabbè, no. L'abbiamo difeso. Penso qui. Però secondo me è questo, altro non vedo. Voglio dire, intanto questa situazione è già abbastanza, come devo dire, già abbastanza orpelli per non mettercene altri. No, infatti, ci manca solo che ci siano cose che indicibili. Però il concetto è questo. Adesso parte il nuovo, qualcuno dice editto bulgaro. Ve lo ricordate l'editto bulgaro? Perché se... era quello di Biagi, no? Sì, roba Biagi, Luttazzi e chi era? Santoro il terzo. C'è il PD Anzaldi che dice Giannini insomma se ne vada e insiste anche ieri qui a Radio 24 intervistato da Sebastiano Barisoni, dice ma insomma è un reato dire rapporto incestuoso, e quindi Anzaldi pensava proprio che Giannini si riferisse a quello, non è che... no, ma insomma quello è talmente chiaro, proprio volerlo vedere male oppure non volere capire. Siccome tante persone risultano all'interno di un giro di connessioni, di parentele, eccetera, significa che è incestuoso una cosa che avviene all'interno di un giro strettissimo. Però non c'è nient'altro da dire. Alla fine, insomma, se ci attacchiamo pure a questo... Quindi Giannini ce lo teniamo. Ma sì, teniamo. Vladimir, ce lo teniamo a Ballarò. Basta, il popolo ha deciso, così è deciso, l'udienza è tolta, neppure padre Livio Fanzaga riuscirà a farci recedere dalla nostra posizione. E poi guardate, questa vicenda della Boschi, dai, la chiude Vittorio Feltri, su, chiediamola con Vittorio Feltri e basta. Ma non capisco che c'entri la Boschi se c'ha il padre Bischero. Saranno affari del padre, lei non ha commesso nessun reato. Non ha fatto niente, finora non le è stato contestato niente se non un presunto conflitto di interessi che non c'è, perché semmai l'interesse era del padre. Poi non rompetemi le scatole con la Boschi, lasciatela lì così mi lustro la vista, io sono innamorato di lei, è bella. Oh, e basta, e chiudiamola lì questa storia. E lasciate che Vittorio Feltri possa ogni giorno guardare al governo con occhi luccicanti, o no? Vladimir, ma basta. No, la cosa della Boschi è dire che ogni giorno c'è qualcuno che fa delle ricerche genealogiche sull'albero genealogico della, della Boschi, c'è il fratello, poi il padre, sì, poi sì, il cognato, uno zio alla lontana, un cugino. Sì, sì, sì. Ieri, ieri c'era questa storia sul giornale con l'articolo riguardante lo zio, tutta la genealogia della Boschi, scritto da un giornalista che si chiama Fabrizio Boschi. Esatto, ma ve lo giuro, ma ve lo giuro, È un articolo incestuoso. Un articolo incestuoso, esatto. Cose veramente da pazzi. Ho due minuti, ma vi chiedo un parere su quello che è successo in Svezia, dove in Svezia adesso tutti i titoloni espelleranno 80.000 migranti, perché hanno fatto gli esami e hanno verificato che la domanda da richiedenti profughi non aveva i requisiti. Verranno quindi bocciate queste domande e per cui li riporteranno nei paesi da dove sono arrivati. Ora, io sarò poco buonista, ma dove vedo tutto questo scandalo? Io non lo vedo tutto questo scandalo. Vedo i titoli, espulsi 80.000 profughi. Non sono profughi, perché uno è profugo quando fa una domanda e la domanda viene accolta. È stata respinta e quindi verranno rimandati via. Lo so che è brutto dirlo, però non lo so, sono troppo cattivo, Vladimir. No, io dico, poi c'è anche la Danimarca che addirittura chiede la confisca di queste poche cose, quella, che hanno questi. Quella è un po' più dura. Diciamo così, dopo che magari già hanno pagato 1.000 euro per un viaggio su un barcone, sicuramente senza comfort, rischiando pure la vita. No, io dico solo questo, che una volta si parlava di quote, che si parlava di un'Europa più solidale, qui invece mi sembra che ogni nazione fa un po' come gli pare. Questo quindi, è vero, quindi non lo so. C'è chi decide di chiudere le frontiere, c'è chi invece rimane in Schengen. Mi sembra che le nazioni più esposte allo sbarco di questi profughi, la Grecia e l'Italia, siano un po' lasciate da sole nelle loro responsabilità. Ognuno va per la sua. Ma il vero fatto è che sono riuscite a evadere 80.000 domande in poco tempo. Noi dovremmo farci dire in Italia. Esatto. Come si fa a evadere le domande con questa velocità, visto che da noi... Però posso dire una cosa, noi evadiamo molto più lentamente, ma forse è uno dei pochi casi in cui nella lentezza c'è un tratto di umanità. Le esaminiamo bene. Beh, oddio, poi ci sono i ricorsi, prima espulsione, poi ricorso, eccetera. Comunque la vicenda è molto complicata, adesso la vedrò anche in rassegna stampa. Guardalo qua, a proposito di rassegna stampa, quei prestiti a vuoto di Etruria all'azienda rossa di zio Boschi sul giornale, autore Fabrizio Boschi. Niente, insistono, è così. E questa cosa mi incuriosisce molto. Scrivono della Boschi, il giornalista Boschi. Vabbè, è così. Hanno fatto scopa, dai. Va bene, dai. Carla Rocchi e Vladimir Luxuria, grazie per essere stati con noi. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Dai che è venerdì, cari ascoltatori. Oggi Peter Bescapè, questa settimana come reagisci meglio? È venerdì! Lavoro anche domani. Beep! Questa è la risposta nelle cuffie, nell'interfono, come si chiama, da parte di Peter Bescapè. Non so, devo fare una petizione, devo fare un intervento qui in radio per darti un sano weekend di riposo dopo una sveglia alle 4:40. Oi! Farollo. Va bene, allora, comunque è venerdì invece per tutti coloro che vivono il venerdì come il giorno ultimo di lavoro della settimana. Settimana decisiva, come sempre, 143esima decisiva per l'abolizione delle province, che si chiude con un nulla di fatto. Ai noi, la 144esima è alle porte. Dai, dobbiamo leggere i giornali, andiamo, forza! Venerdì 29 gennaio, i titoli, le aperture sono queste: il Sole 24 Ore sulle borse europee in caduta, il petrolio salva Wall Street, mentre anche Repubblica, le banche affondano la borsa, meno 3,5%. Anche il giornale, le banche crollano ancora, fallisce il piano Renzi, questo è il titolo di prima pagina.